toga y mi pipi no so tumpa. Toga y mi pipi no so tumpa. Toga y mi pipi no so tumpa. Andaba mucha linda margino. Rea sobre bomba, no re bomba. Rea sobre bomba, no re bomba. No rea sobre bomba, na impoya. Oso santos pedinte sonadores. Epiritos poca gallega. Epiritos poca gallega. Piriquitos tocar a llegar. La luga de llora, la mara y la regantén, la mara y la regantén. Cayó un delirien, en anima coroemente, en anima coroemente. La luga de llora. Aurora mara y de regantene mara y de regantene caso no dilirene anima coroemente anima coroemente caso no dilirene anima coroemente anima coroemente maririn dinirin dinirin dinirin. Asamente di mi pa, estamos damos mi nara, estamos gusto con esto, damos gusto con esto. mi nischido dai no, do raffritta lacrimare, do raffritta lacrima. Ma so disposto a passare, drista sardi es protene, drista sardi es protene. Ma so disposto a passare, drista sardi es protene, drista sardi es protene. Ma due chissà si mai, ma bella, bella, bella, bella, bella, bella. Ma due chissà si mai, ma bella, bella, bella, bella, tamentar de mene. Giunsa tre ginora una canta, ma che carino che ma sona, chi te ragiona, con panza mi sa om. Giugoro che re chi sfoghe, sa moro, sa passione, messi rischi la sanzone, sa mantero perdon. In questa notte incantosa, tranquilla e profumata, pensa per tua ordiosa, con s'anima innamorata. Essa era ricca mara, con intito le stella, se tu es estra sarbella, sappi urare tizio. A ti mirare calana, ande a to su via gere, mero tu di vagar mere, con tanta semplicità. E chi è lontana mare, solo in su vedere bianca, e turche poesia, su ed intender faena. E te divo del lograre, intendo e spero esa fortuna, ma proga a montare a luna, si chi impagare posare, diririndirirella, rindiririndirirà.